radiazione lunedì 18 maggio, oramai la radiazione come si sa va solo in diretta il lunedì, fa troppo caldo, ma più che altro c'è poco da dire in quest'ultimo periodo per fare una diretta intera solo di controinformazione, quindi preferiamo fare una buona diretta il lunedì e non due a metà. Ci mozzicate. Quindi oggi, come tutti i lunedì, come tutte le ultime dirette di radiazione, la diretta si interesserà sia della controinformazione, ma soprattutto della lettura. Stiamo leggendo il nuovo libro iniziato lunedì scorso di Vittorio Curtoni, Il retro futuro. Sono brevi racconti di fantascienza, ogni diretta ne leggeremo uno. Abbiamo letto l'altra volta L'esplosione del Minotauro, oggi sarà la volta della sindrome lunare. Quindi continuiamo con la fantascienza su radiazione. E ricordiamo gli indirizzi utili a radiazione@dc.org per chi vuole scrivere a radiazione, mandare scritti, comunicati, mail. I consigli oramai non li mandate più perché la stagione è quasi finita. La stagione. E quindi avete perso una buona occasione per darci un consiglio, anche critiche. Quindi la mail per mandare scritti, comunicati, e quanto si può fare attraverso una mail di radiazione. Invece il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e scaricare un bel po' di materiale attraverso la pagina o di download o da Edizioni Radiazione, dove trovate tutto il materiale che fa uscire Radiazione sotto forma di opuscoli oppure CD, come l'ultimo che è stato messo scaricabile free download e che dovrebbe andare benefit per i compagni detenuti e per chi lo scarica e lo mette in diffusione, come per tutto il resto del materiale che trovate download, free download su Radiazione. Il sito è bilingue, c'è quella italiana, quella che conoscete un po' tutti, e quella in lingua croata, a cui potete accedere attraverso il banner che trovate in sidebar. Sito e radio vengono ospitate dal server anarchia.net, messo a disposizione al comando di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Con questo ho detto tutto. L'ingresso. Allora, ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Gang of Four, Damaged Goods, e poi dopo si torna qui e si inizia questa sindrome lunare. Damaged goods. said would do me good, refund the cost. You said you're cheap, but you're too much. Sindrome lunare. Antonio. Certo, quest'idea del registratore mi pare veramente eccezionale. Voglio dire, è bello pensare che tu te ne vai in giro con quell'aggeggio e ci imprigioni dentro tutte le nostre voci, anche se, francamente, non capisco com'è che possa funzionare. C'è ancora elettricità? Oppure va a pile? E dove cavolo te le sei comperate le pile? Chi se ne frega in fondo? I particolari tecnici sono affare tuo. Quello che mi piace veramente è pensare che c'è ancora qualcuno che cerca di tenere in piedi le cose, che non dà retta al grande svaccamento generale. Facevo il giornalista anch'io, lo sai, come dici? Non è vero? E perché diavolo ti permetti di intrometterti nella mia confessione? Ero giornalista, punto, e basta. Senti, non fare quella faccia, o stai calmo e serio o io non ti racconto un bel niente. Mi ricordo ancora le giornate di sole quando uscivamo dalla redazione perché faceva troppo caldo e le macchine giù in tipografia si fermavano e noi andavamo a caccia di coleotteri giganti nelle paludi di Milano. Sai, quelle bestiacce enormi che se ti pungevano ti facevano cadere in coma per una settimana o giù di lì. Uno dei nostri inviati speciali c'è anche morto, poveretto. Dicevano che 7 di quelle cose se le erano portate via in cielo e che lui gridava come un pazzo e da terra hanno sentito il rumore di quelle mandibole micidiali che facevano crack crack sulla sua pelle. Insomma, se lo devono essere mangiati proprio come un biscottino. Buffo, che buffo, non ti viene da ridere? Io certe volte mi sento proprio esilarato, qui in fondo, tuttavia. C'è aria buona, si respira bene, a parte quella merda di roba che ci ritroviamo addosso, ti pare? Ok, sì, lo so, sto divagando. Tu vuoi tutto dall'inizio, fin dal principio. A dirlo è facile, ma vorrei vedere te con la confusione che mi ritrovo in testa. E poi di notte. Ci sono le volpi verdi, micidiali. Qui la casetta è piccola, ci stringono d'assedio. Io scappo da una finestra, dall'altra con i fucili, sparo. Ogni tanto ne prendo qualcuna, ma figliano come conigli e non è possibile mica farle tutte fuori. Credimi, anzi, se mi dai una mano stanotte mi fai davvero... davvero un piacere. Comunque guarda, adesso mi viene in mente l'inizio, proprio l'inizio, sembrava un giorno come un altro. No, aspetta, fammi ricominciare. Hai cancellato tutto? Ok, andiamo avanti. Ricordo che stavo appoggiato contro un muro e tenevo in bocca un filo d'erba. Mi piaceva molto tenere in bocca i fili d'erba. Allora c'era lì anche Renato, che invece masticava un fiammifero appoggiato contro lo stesso muro. Guardavamo le due lune che ballonzolavano nel cielo e c'era chiaro, anche se il sole non era ancora spuntato. Due lune però fanno una bella illuminazione dopo tutto. A un certo punto Renato è scivolato per terra e ha vomitato un po'. Chiediglielo quando gli parli, sai cos'è? Mangiava sempre come un porco quell'idiota, si ingozzava di pesce e gamberetti e poi alla fine stava male, ci beveva sopra anche litri di vino. Comunque eravamo amici. E io mica potevo lasciarlo lì a vomitare da solo come un verme. Mi faceva tristezza. Ecco. La bontà tante volte ti frega. Se non mi fossi lasciato cadere vicino a lui, non mi avrebbe vomitato addosso e io avrei ancora quel bel vestito color panna che invece ho dovuto buttar via perché le tintorie non funzionavano più da un pezzo e mia moglie non è mai stata brava per lavori in casa, quell'altra cagna fetente. Comunque, mi sono ripulito e gli ho tirato un calcio nei coglioni, se lo meritava, no? Dico, venirmi a vomitare addosso così senza una ragione, proprio da disgraziati. E allora, lui si è messo a rotolare sull'erba e gli facevano male le palle, poverino, urlava e mi lanciava insulti. Roba di poco conto del resto. Sai, io sono un tipo piuttosto distratto, ma fatto sta che in quel preciso momento il sole è zompato su nel cielo, pling, come una pallina da tennis tutta rossa, e si è avviato verso il suo glorioso tramonto. Bella frase, cavoli, il suo glorioso tramonto. Allora io ho piantato lì Renato e mi sono messo a guardare un tramonto, quel tramonto, e ci godevo davvero, ci godevo veramente un godimento spirituale, è ovvio. Dopo un po' che stavo immobile, Renato si è tirato su e mi ha appoggiato una mano sulla spalla e si è messo a piangere. Io credevo che fosse ancora per il calcio nei coglioni, ma gli ho chiesto lo stesso che cosa aveva sempre per via della mia bontà. E ricordo benissimo che lui, allora, in quell'istante mi ha risposto: mio fratello si è buttato giù dal balcone. È un inizio tragico, non trovi? Soprattutto con quel sole così rosso. Il primo morto, senza dubbio. Quello che poi ha dato il via a tutta quella faccenda con le dichiarazioni degli scienziati, eccetera, eccetera. Certo, sì signore, il fratello di Renato che si era buttato giù dal balcone. Ti piace come racconto? Angela. La cosa più difficile per me è riuscire a distinguere fra tutti questi uomini che si aggirano in casa o che tornano dentro pieni di pioggia. Fuori continua a piovere, non smette mai, e i nostri piccoli generatori atomici non ce la fanno a trattenere il caldo, a darmi tutta quell'intimità di cui avrei bisogno. Certe notti mi sveglio urlando, ho freddo, mi sento male, ma nessuno mi ascolta. Si è scavata questa enorme distanza fra noi, e poi ci sono le doppie immagini, i fantasmi, i corpi astrali, chiamali come cazzo vuoi. Sostanzialmente dovrebbe trattarsi di Antonio e Renato, lo so. Loro negano di avere dei doppi che circolano per la casa, ma io li ho visti, li vedo sempre. C'è un modo sicurissimo per distinguerli dagli originali. Riescono a passare attraverso i muri, diventano quasi trasparenti e scompaiono dall'altra parte senza fare il minimo rumore. Detto così sembrerebbe facile. Il guaio è che non sempre attraversano un muro o una porta o qualche altra cosa, per cui io non so come regolarmi. Cosa mi importa, dici? Mi importa sì, a te piacerebbe essere scopata da un fantasma, vedi? Fondamentalmente, poi, il problema è che non ricordo più chi sia mio marito, e quindi non so mai se mi sto facendo una chiavata lecita o se commetto adulterio, oppure, e questo è davvero orribile, se mi lascio violentare da uno spettro. Sì, d'accordo, si tratta solo di immaginazione, ma poi chi lo sa, io non ne sono mica così convinta. Stammi a sentire. Quelli che arrivano mi sbattono sul letto, mi spogliano e poi mi si buttano addosso. E io che cos'è che dovrei fare? Mettermi a gridare? Chiamare? E chi poi? No, francamente non avrebbe senso, non ci sarebbe motivo. Soprattutto quello che non riesco a comprendere è la fisicità dei doppi, il peso del loro corpo, la consistenza, se mi passi la parolaccia, dei loro cazzi. Tutta una serie di orgasmi veri che mi travolgono da mattina a sera, e una povera donna come fa a regolarsi? Dio, sono sempre stata così religiosa, nemmeno le porcherie che facevamo i primi tempi mi piacevano molto, anche se allora, si marciava ad un altro ritmo, ma insomma, a te è mai capitato? Guarda, io credo che quella roba ci abbia preso tutti quanti dal lato del sesso, facendosi diventare come tante bestie che non ragionano più, da morire da ridere, se non fosse tanto tragico. D'accordo, oggi come oggi, non credo che valgano più un fico secco quelle belle storie di morale che ci raccontavano i preti, ma una deve difendersi, mantenere il senso delle proporzioni. Li odio, questi maledetti doppi, che se ne vanno in giro con il loro fottuto uccello che sta lì bello duro nei calzoni, appena gli capita un'occasione, zac, e mi saltano addosso. E questi erano Rally Ver Zero dopo la prima lettura di oggi per quanto riguarda Retro Futuro di Vittorio Curtoni. Ora si passa alla controinformazione, leggendo un testo, quello del compagno Diego Rios, dopo la fine del suo processo. Il testo del compagno dice: scrivo queste parole con l'intenzione in primo luogo di ringraziare tutti gli atti e gesti di solidarietà che ho ricevuto, quelli che hanno attraversato il mondo e quelli più anonimi, non solo nell'ultimo periodo ma già quasi da 6 anni, da quando è iniziata la mia situazione di latitanza dal potere Stato Giustizia, così come la stessa agitazione e la solidarietà che si attivò quando la polizia mi arrestò a febbraio di quest'anno. Poi voglio informarmi dell'uscita dal modulo di massima sicurezza del carcere di alta sicurezza, dopo essere stato là per circa 7 settimane, custodia preventiva, come risultato di un processo con rito abbreviato in cui sono stato condannato a 541 giorni di pena come firme mensili per il reato di possesso di materiale esplosivo e di elementi per la fabbricazione di materiale esplosivo. La scelta del rito abbreviato, così come per la non rivendicazione o di propaganda della mia prigionia sentenza, corrisponde ad una decisione personale su cui mi sono fatto molte domande e che per realizzarlo è stato necessario fare una dichiarazione incriminante in cui mi sono assunto la responsabilità paternità del delitto che mi è imputato. Oggi, con tutte le mie domande personali, io continuo ad essere convinto della mia scelta di vita, ognuna delle mie decisioni e motivazioni che hanno portato ad esse. La scelta di un processo abbreviato è la scelta quantomeno discutibile e sceglierla per me non implica il pentimento né tantomeno alcuna forma di tradimento, e penso che ci sono criteri, valori minimi sull'affrontare il carcere. Nuovamente apprezzo l'appoggio, la solidarietà e la complicità, ma sappiamo che nulla è finito e abbiamo ancora tanto da continuare a fare. Un saluto e un abbraccio a tutti coloro che continuano il loro cammino contro il potere. Diego Rios. E questo era il primo testo di controinformazione che leggiamo oggi nella diretta di lunedì 18 maggio. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Motormark, il brano è The Beat, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di La sindrome lunare di Vittorio Curtoni. Thank you. Renato. Stai fresco se dai retta a quel coglione di Antonio. Lui e la sua Claretta, bella coppia di stronzi a dire il vero. Mio fratello che si butta giù dal balcone è lui che mi tira calci nelle palle, eh? Completamente pazzo. Ma nemmeno per idea. Figurati che ieri siamo andati a caccia di dinosauri e lui, sai che cosa si è portato appresso? Una fiocina da subacqueo. Incredibile. E la cosa più micidiale è che era convinto di avere in mano un bazooka e si preoccupava perché non trovava più le munizioni. E va bene che qui non si capisce più un accidente di niente, ma bisogna stare attenti, i dinosauri non scherzano mica. Se ti beccano, sei fritto, tanto vale allora andare per farfalle. Accidenti, se scrivi in fretta, ma che fai, stenografi? Ah, mi pareva, eh. Sono pochi quelli che coltivano le antiche arti. La cosa ti fa onore, ragazzo. Adesso ti dico io com'è andata, ma te lo dico sul serio. È cominciato tutto quando quei cretini di comunisti si sono lasciati prendere la mano dagli estremisti, dagli studenti, dai poliziotti. La pubblica sicurezza organizzava scioperi e c'erano questi picchetti di docenti universitari in assetto di guerra che lanciavano candelotti lacrimogeni. Un casino formidabile, ti giuro. Mi ci sono trovato anch'io un giorno, non si vedeva più niente, fumo da tutte le parti, spari, grandi zampini di zolfo, l'inferno, scatenato. E quei cavoli di servizi d'ordine che invece di mettere ordine aumentavano la confusione, sicché dopo mezz'ora si stavano tutti scannando alla disperata. Insomma, un macello. Adesso le idee sono un po' più confuse, però sono sicuro che è cominciato tutto da lì. Botte, battaglie per strada, casini terrificanti, bisognava girare con le maschere antigas. Già le cose erano poco solide, figuriamoci con quel bordello. E chi ci capiva più niente? Ah, merda. Alla lunga ho perso il filo, ho dato forfè, ma sì, continuavo ad aver voglia di capire, lo giuro, ne avevo una voglia da morire di capire, dopodiché è venuto tutto il resto e siamo ancora qui. Se non sbaglio, l'intera faccenda è successa anno più, anno meno, nel 117 d.C. Sì, giù di lì, sì. Ricordo che avevamo appena scoperto l'Australia, ma nessuno fece in tempo a scappare. Troppo veloci le rappresaglie e troppo spietate. Claretta. Sono mesi o forse anni o forse secoli che vivo in questa desolazione e non c'è nessuno che venga mai a trovarmi. Nessuno mai, persino mio marito si è dimenticato di me. Mi vedi come sono, sdraiata su questo letto, inchiodata in una casa che non è nemmeno mia. Ma fuori piove, non si può più uscire. E poi tutte quelle bestiacce mi si mettono in giro dalle prime ore dell'alba e sarebbe davvero assurdo tentare l'avventura. Lo sapevo che prima o poi saresti ricomparso, papà. Come sei bello con quella barba bianca e i tuoi grandi occhi verdi, gli stessi che hai sempre avuto. Non sei per nulla cambiato, anzi, ti trovo meglio. Quando abbiamo chiuso la cassa, avevi la stessa aria malaticcia di tutti gli altri morti. E questo mi dispiaceva davvero. Non te lo meritavi, credo. D'altronde, eh sì, il cancro è un mostro che non perdona. Anch'io il cancro, ormai ne sono sicura. Sento crescere ad ogni secondo che passa una massa di carne marcia che mi ostruisce l'utero e soffro di dolori atroci. È per questo che Renato non mi guarda nemmeno più. Non riesco a fare l'amore, mi odia, forse. Tanto c'è quell'altra puttana di Angela che non perde occasione per consolarlo. Oh, ma io credo ancora, io credo che ci sarà pure un inferno per chi pecca come loro. Non ho perso la mia fede, io. Sì, certo, lo capisco che mi guardi in quel modo e vorresti sapere tutto, renderti conto. Deve essere duro resuscitare e scoprire che il mondo intero sta marciando verso il disastro, verso la corruzione. Certo che ti comprendo, la tua curiosità. È più che legittima, è anch'io questo cancro che mi rode dentro. Questa terribile malattia del corpo che mi paralizza su un letto fetido, ospitata in una casa estranea come una poveretta qualsiasi. Povero babbo. Tutti i nostri soldi non ci sono serviti a niente. Ricordi quando la mamma morì? Oh, io ero piccola, avevo solo un paio d'anni, ma non ho mai potuto dimenticare perché morì nel dare alla luce le mie 26 sorelline, tutte così piccole, deliziose, tenere. 26, papà. 26, non ricordi? Parti del genere non erano poi una rarità a quei tempi. Oggi sì, purtroppo, oggi non nasce più nessuno. Questi cancri all'utero stanno divorando le poche donne vive come me, chiusa qui, afflitta, inconsolabile. Sei stato tu poi a crescerci, tutte e 27. Lavoravi sodo e ci davi da mangiare, ci hai fatto studiare anche. Che deliziosa creatura che eri, papà, prima di morire. Adesso invece non parli, non piangi, non ridi, non dici niente. Che cos'è che hai, papà? Loro avevano 22 anni quando successe. Io ne avevo 24. È naturale. Credo che sia stata questa differenza di età a salvarmi, anche se è un'idea che mi sono fatta da sola, ma immagino sia giusta. Capisci? In queste notti così solitarie io non ho niente di preciso da fare. Mi guardo attorno, parlo un po' con gli uccelli che vengono a beccare le briciole del mio pane e penso sempre. E cosa dovrei fare? No, non rimpiango le schifose ammucchiate dei primi giorni. Renato ci prendeva troppo gusto, o forse era Antonio, forse Riccardo, non rammento. Facevamo tutte le cose che ci avevano sempre proibito di fare. Ogni tanto mi viene perfino da sorridere, addirittura da sghignazzare se ci ripenso. Forse in fondo sono una porcona. E c'era qualcuno che me lo ripeteva spesso anni fa, e io non gli davo retta perché avevo paura, perché il demonio si annida in ogni angolo del corpo e bisogna fare pulizia, scacciarlo, esorcizzarlo. Divago. È che tu non parli, non rispondi. Ma insomma, questo ti chiedo. Ricordi il giorno che le mie 26 sorelle, le tue 26 figlie si sono prese per mano e si sono buttate dal 32esimo piano di quel grattacielo? Ti ricordi che fatica terribile raccogliere le briciole che restavano dei loro corpi e quella specie di marmellata di sangue e l'odore atroce che impregnava l'aria? Antonio. Può darsi che mi sia sbagliato, lo ammetto. Anche io ho le mie falle di memoria, cosa vuoi? E poi quell'accidente di registratore mi mette in soggezione, sì, mi intimidisce a dir la verità. Non potresti spegnerlo un attimo, no? Ah, certo, se non registri poi non ricordi, mi sembra logico. Ma che cos'è che hai intenzione di fare? Scrivere un libro? Chi te lo pubblica? Fammi accendere, va, per favore. No, non con il lanciafiamme, basta un cerino. Grazie. Dunque, se non era il fratello di Renato, saranno state le sorelle di Claretta. Comunque, non erano 26, questo è certo. Siamo pazzi, ma non è possibile. 26 sorelle, con il papà che predicava per il controllo delle nascite e tutte le mattine distribuiva pillole ai fedeli che andavano lì a sentire tutte quelle sue cazzo di prediche. Come si chiama? Palermo. Ah, sì, sono sicurissimo, cazzo. A Palermo c'era il cupolone di San Pietro e tutto il resto. Facciamo 5 o 6, non 26, va bene? 5 o 6 sorelle, voglio dire. Dal che devo dedurre che non ho tirato quel colpo nei coglioni di Renato. L'avrò tirato nei coglioni di Claretta, allora, ma Claretta non ha le palle. Boh, poco importa, le avrò dato un pugno sulle tette. È lì che gli fa male, alle donne. Aspetta. Adesso mi viene in mente qualcosa di importante. Magari a te sembrerà banale, ma io intuisco che il fatto è decisivo, addirittura tragico. Cosa vuoi? Nella mia vita ho sempre funzionato per intuizioni. E se non mi servono adesso, lo sa il cielo quando mi sono servite. Sì, certo, erano tre sorelle. In effetti si sono buttate giù da un grattacielo. Così, d'un colpo. Patapunfete. Come bersi un aperitivo. Renato mi ha telefonato verso le 4 del pomeriggio in ufficio e quando sono arrivato Claretta era a pezzi, urlava. Si sbracciava come un'ossessa con tutta quella gente che passava e si fermava a guardare. Lo spettacolo non era certo dei più divertenti e tieni conto che suo padre era già in ospedale da un paio di mesi per un'operazione d'appendicite che può sembrare una cretinata, ma suo padre aveva 96 anni ed è così che è morto, poveretto. Perché i medici di quella clinica fetente si sono dimenticati di ricucirlo e lui ha continuato a perdere sangue fino a che il sangue non si è esaurito. Insomma, abbiamo dato una mano ai vigili che erano lì per raccogliere tutto quello che restava di queste quattro povere ragazze e mi ricordo che uno dei vigili era stato incaricato dal comando supremo di racimolare il più possibile delle ossa. È qui che viene il punto fondamentale. Questo tizio, che tra parentesi aveva in testa un casco talmente luccicante che ogni volta che lo guardavo mi faceva piangere gli occhi, si è voltato verso di me dopo tre quarti d'ora di quell'esasperante recupero, ha scrollato le spalle, mi ha fatto un mezzo sorriso e mi ha detto: tempi duri, caro signore, tutti così, sembra di vivere in una macelleria all'aperto. Ora, la frase mi suona strana, non ti pare? Fossi in te indagherei su quella traccia. Di più per il momento, devo dire, non ricordo. Fra l'altro, qui è quasi buio. Mi aiuti a ricaricare i fucili? Per rivedere le volpi, te l'ho già detto. Se non le finiamo adesso, non le finiamo più. The clockwork is making a sound. The clockwork is ticking. The street crowd is rolling its sound. The clockwork is filled with sand. The clockwork is running on battery. The clockwork is running on battery. The clockwork on the wall in a factory. The clockwork is ticking. The clockwork is making a sound. The clockwork is ticking. The street crowd is rolling the sound. The clockwork is filled with sand. Making a sound, it won't make another round. The class war from the pit to the grave. The class war, the social reality. Trying hard. questi erano Dean e Todd con il brano Clockwork, dopo la seconda lettura per oggi della sindrome lunare, breve racconto tratto da Retrofuturo di Vittorio Curtoni. Ora si ritorna alla controinformazione leggendo un altro scritto di un altro compagno, Paul Iara, compagno arrestato per l'operazione Pignata. Il testo del compagno: saluti compagni affini, mi piacerebbe trasmettere là fuori qualche parola da anarchico e assumendo come valide le molteplici posizioni e le visioni che l'anarchismo può adottare, essendo tutte ugualmente valide quando cercano di distruggere il potere, l'autorità e lo Stato. Penso che in questo sta la bellezza delle nostre idee e a mio parere tutti questi percorsi possono coesistere e si fondono insieme in cerca della liberazione totale tanto desiderata. Voglio esprimere il mio odio, il disgusto e il disprezzo per tutto ciò che concerne lo Stato, il potere, l'autorità e in particolare lo strumento di annientamento chiamato carcere, che utilizza come una delle sue armi principali l'isolamento. Ho sempre difeso l'idea che gli anarchici debbano prepararsi ad essere consci che in qualsiasi momento possa arrivare il giorno in cui debbano affrontare il carcere, e secondo me è una cosa logica, perché se cerchi di distruggere lo Stato, questo proverà ad arrestarti per annullarti, paralizzarti e distruggerti. Ma nonostante tutto non ci riusciranno. Ciò nonostante, se per una ragione o nell'altra non ci tocca, meglio per tutti. Voglio informarvi che sto bene fisicamente e mentalmente, continuo a pensarla come prima di entrare e inoltre mi sento ancora più convinto delle mie idee, con la testa ben alta e orgoglioso di quello che siamo. Sono come mi comporto e mi relaziono nella teoria e nella prassi, facendo sempre autocritica per poter continuare a crescere, poiché non si smette mai di imparare e con quello che abbiamo già appena espresso non mi ritengo né migliore né peggiore rispetto ad altri. Voglio trasmettere forza e coraggio ai compagni, alle compagne e agli affini e dirvi con tutta la mia forza e la mia rabbia che ho come unico cammino la lotta. Con questi colpi la repressione vuole spaventare e paralizzare l'area anarchica ed affini perché si faccia solo il lavoro di assistenza ai colpiti della rappresaglia. Non permettete che accada e che continuate fermi con i vostri progetti e che non esitate a continuare a dire quello che siete e pensate, fino ad ottenere la vera liberazione totale, che la solidarietà non sia solo parole scritte, morte allo Stato e viva l'anarchia, dal centro penitenziario Soto del Real, primavera del 2015. E questo era il testo per quanto riguarda, forse è proprio uno dei primi testi che arriva dagli arrestati per l'operazione Pignata, che ricordo è un'operazione che ha seguito a breve tempo quella Pandora, in cui ci furono altri arresti in Spagna. Quindi al testo del compagno non abbiamo da aggiungere niente, qui ci andiamo ad ascoltare un altro brano, loro sono Psychopomps, il brano è Hate, e poi dopo si ritorna qui con la sindrome lunare di Vittorio Curtoni. Yeah. Angela. Non volevo confessartelo, cara, perché tu mi sembri così innocente e hai quell'aria da santarellina che fermerebbe anche uno stupratore inferocito. Ma qui tutto ha un sesso, tutto, le porte, i divani, i gabinetti, mi violentano di continuo. Sai cosa mi è successo stamattina, appena dopo che avevamo smesso di parlare? Oh, è stato orribile. Ho visto la parete sciogliersi, la parete della cucina, voglio dire. E poi subito dopo riformarsi con la stessa identica forma di un corpo umano. E tieni conto che c'era pieno di questi doppi che andavano e venivano attraverso una porta o l'altra, sorridendomi. Quei figli di puttana sorridono sempre quando ne hanno voglia. Mi passavano vicino e sfregavano le mani sulla mia, insomma, hai capito? Su quella cosa là. E poi ridevano ancora di più. Saranno 5-6 mesi che non porto più le mutandine, perché quando le avevo loro si arrabbiavano e me le strappavano di dosso e mi facevano male. Allora tanto vale essere sempre pronta, non si può mica sfuggire a quegli sporcaccioni. Certo che il muro mi ha fatto venire in una maniera incredibile, sai? Quando l'orgasmo ti monta dentro e ti arriva su poco per volta fino alla bocca, al cervello, e hai tutto il palato asciutto e non sai più se gridare o metterti a piangere, tanto che differenza fa? Ecco, così, esattamente, esattamente così. Ed era un corpo molto robusto, molto forte, fatto di cemento, cosa credi? Io lo sentivo che era cemento. A un certo punto si è persino sbriciolato sotto le ascelle, dove portava una peluria bionda, però aveva quel cazzo formidabile, due palle d'acciaio, insomma, una scopata da non dimenticare in fretta. Anche perché ci avrà messo perlomeno un'ora a venire, io intanto giù con gli orgasmi, uno in fila all'altro, pazzesco, pauroso, oserei dire divino. Cristo, ma che cos'è che ti sto raccontando? Adesso tu ti sarai fatta l'idea che io sia una specie di sporcacciona che va in giro a cercare uomini a sprombattuto, magari di cemento. E che la dà via così, per niente, solo per venire. Eh sì, effettivamente, può anche essere, chi lo capisce più. È solo che qui c'è tanta violenza, è un'ossessione, non posso sempre correre, non so dove rifugiarmi, e poi sì, poi ho freddo. Ma cosa credi? Mi tocca scappare sul bidet ogni 5 minuti per farmi le mie sacrosante lavande vaginali, altrimenti chissà quante volte sarei già rimasta incinta. È il figlio di un muro, eh? Il figlio di un muro, me lo sai dire tu che razza di cosa potrebbe essere? Un mattone? Una tegola? Io ho solo un po' di ricordi confusi, vaghi. È come se mi avessero mangiato il cervello, non proprio il cervello, capisci? Quello che ci stava dentro, e mi avessero abbandonata sulle spiagge di questo presente che a conti fatti è piuttosto infame, schiavista. In effetti, sì, molto tempo fa, più o meno verso la preistoria, so che un giorno io ero sola in casa e che è entrata una grossa salamandra tutta rossa che schizzava la lingua attorno in cerca di zanzare. E invece non c'erano zanzare, c'ero io, solo io. E si è gettata su di me. No, allora le violenze sessuali non erano nemmeno cominciate. Mi toccava andare avanti da sola con certe cose che è inutile che ti venga qui a raccontare. Fatto sta però che questa salamandra si è appollaiata fra i miei capelli e ha scavato un buco. Un buco molto profondo, vedi? Ho ancora la cicatrice, Cucumalda. Poi la sua lingua si è posata sul mio cervello e lei ha leccato e succhiato, succhiato e leccato. Era fenomenale. Mi sembrava di essere un gelato, però sentivo un bel caldo dentro. Non come adesso, che ho sempre freddo. Tutto qui, semplicemente. Quando l'ho raccontato a Renato, lui mi ha detto che era una salamandra spazzina e che prima o poi sarebbe venuta a risucchiare i ricordi di tutti quanti noi. Antonio invece diceva che è perché le salamandre stanno per prendere il potere, cioè stanno per diventare le nuove padrone della terra. Tanto noi uomini e donne non serviamo più a niente. E allora hanno bisogno di imparare le nostre esperienze, di sapere quello che facevamo prima che tutto andasse in malora. È un sistema molto comodo e simpatico, però le salamandre se ne infischiano delle leggi dell'evoluzione, ha detto Renato, e Antonio ha aggiunto: la battaglia deve essere dura, altrimenti non ha senso. Beh, allora tu adesso me lo spieghi che cos'è che voleva dire, per favore? Sì, ma c'è una cosa che mi ricordo, anche se non so cosa significa o quando è successo oppure se abbia importanza. Camminavo da solo lungo una strada ed ero molto triste perché si era ucciso qualcuno, chissà chi, qualcuno a cui volevo bene, però, e per questo ero fuggita di casa e me ne andavo da sola. Era tutto un po' strano perché non c'erano in giro automobili oppure motociclette oppure biciclette. C'era un enorme silenzio, il sole che picchiava forte, i palazzi altissimi e deserti. Già, un disastro, credo. E poi vedi, dove mettevo i piedi c'erano delle pozze di sangue, odore di cadaveri, come se qualcuno avesse fatto una strage per le strade della città. D'improvviso un uomo mi ha presa per il braccio, mi ha gridato una frase che non so, mi ha tirata da una parte, io ho sentito come uno spostamento d'aria, un urlo, e quando ho guardato nel punto dove stavo prima c'erano due bambini sfracellati. Dovevano essere morti sul colpo perché non piangevano nemmeno. Ci pensi? Potevano cadermi addosso e ridurmi a brandelli, uccidere anche me che non c'entravo per niente e che ero lì per pura e semplice disperazione. E infatti quell'uomo mi ha detto, questo lo ricordo benissimo: attenzione a dove cammini, mai stare sui marciapiedi con tutti quelli che si buttano, c'è il rischio di finire spappolati. Antonio, dai, bene, così va benissimo, ficca dentro le pallottole e non preoccuparti, questi fucili sono sicuri come la morte, non ti scoppierebbe in mano neanche a volerlo fare apposta, eh? Ne ho di cervello io, mica come quegli altri rincoglioniti con cui sono costretto a vivere. Pensa che quando abbiamo deciso di venire a stare qui, loro non volevano prendere su neanche un'arma. Ho dovuto pensare a tutto da solo. L'hai visto il carro armato che è lì davanti a casa? E il bazooka che tengo lì nel mio studio? Ah già, sì, lo capisco. Tu non ce l'hai mica il fegato di uscire là fuori. Non ti va di rischiare la pelle per niente, ma chi lo sa? Forse hai ragione tu. Io d'altra parte mi diverto. E tanto non mi nascondo che qui si tira a campare, che prima o poi ci saranno gli ultimi fuochi d'artificio, eccetera, eccetera. E a quel punto, amen, non ci sarà più niente da fare. Noi siamo duri come le rocce, caro mio, ma l'erosione continua, se mi concedi la metafora. Ehi, non te l'ho mica raccontato di quella volta che siamo usciti dalla redazione e fuori c'era questo immenso deserto con i cammelli a cinque gobbe che mangiavano carne umana, come scoprì quello stronzo di tipografo quando si ritrovò senza un braccio? Gente, che tempi! Allora sì, che ci si divertiva. Shhh, taci, stanno arrivando, le senti? Ah già, non le senti, per forza, non fanno rumore. Ci vuole un orecchio fino come il mio, 20 anni di allenamento. Sono 20 anni che do la caccia a queste schifezze di volpe verdi. Ne ho fatte fuori un bel po', cavolo, se ne ho ammazzate, ma quelle sì. Continuano a fare figli, dilagano, sono tremende. A volte penso che saranno loro a prendere il nostro posto quando ce ne andremo. Chissà se ci sono rimasti altri uomini poi, boh. Chi se ne frega? Non verranno certo a tirarci fuori da qui. Ecco, bravo, bravo. Mettiti a quella finestra e tieni pronto il dito sul grilletto, naturalmente. Com'è che diceva quel tale? Abbiate fede in Dio e tenete in frigo la polvere da sparo, oppure qualcosa del genere. Non è che io sia mai stato molto forte con i proverbi, comunque. Beh, comunque appena ne vedi una, spara, non preoccuparti, tu spara. Tanto abbiamo tutte di quelle cartucce che ce ne resterà sempre una per tirarci un colpo in bocca, eventualmente. Eventualmente, già. Ecco, in certi momenti mi prende la depressione, come adesso per esempio, e non so mai perché, se è un motivo valido o se è solo così per niente. Mi pare importante sul serio quello che stai facendo, anche se non vedo che cosa potrebbe servire ricordare, ma magari sì, magari lasciare qualcosa di scritto, un documento, una storia per altri che verranno dopo, giusto? Io credo che sia proprio questa la tua intenzione, ma per carità non devi dirmi niente. Non devi rispondere. Io mi faccio rigorosamente gli affari miei. È vero, adesso lo so, era diventata una specie di malattia. Tutti che si buttavano giù e si fracassavano come burattini. Con i fili, non senza fili. E dopo qualche giorno c'era sempre l'odore di putrefazione che ristagnava nell'aria. Un macello. Una cosa tremenda. La terra si era trasformata in una specie di sconfinato cimitero. E non si sapeva chi sarebbe sopravvissuto. Proprio non si poteva immaginare. Quanta rabbia, quanta disperazione. Ma adesso è così vago, così remoto. Non mi tocca più da vicino, anche se un sacco di gente che conoscevo è morta in quel modo, ma non ricordo nemmeno i nomi. Il bello del tempo è che cancella tutto, non trovi? Sì. Poi l'hanno capito perché succedeva e gli hanno anche dato un nome. Hanno cercato di fermare quella tendenza al suicidio, ma chi si ricorda più? Ehi, guarda là, ce n'è una! E che cazzo spara, idiota! Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное? Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо? Job the charges! Это запрещенное, давай! Fire the power, you know? тела. Сидел на кабал, да работать не хотел. Not that crime. It's not a crime, it's legal, perfectly natural. E così erano Gogol Bordello con il brano Not a Crime. Ora si ritorna alla controinformazione con un testo che divideremo in due parti. È stato da Finimondo, però in, cioè stesso Finimondo lo prende da Ricochet, numero 6, maggio 2015. Allora, il testo inizia: sabotaggio 1. Azione clandestina di danneggiamento, distruzione, in genere violenta, mirante a rendere inutilizzabile un materiale o un'installazione civile o militare. 2. Sostantivo maschile. Manovra atto avente come scopo la disorganizzazione e fallimento di una impresa, di un progetto. 3. Sostantivo maschile. Atto materiale tendente ad impedire il normale funzionamento di un servizio. Talvolta siamo indotti a credere di abitare un mondo di fantasmi senza corpo né forma. Essi infestano i nostri giorni e le nostre notti, cercando di determinare e di controllare la nostra intera esistenza. Si chiamano economia, nazione, politica, bene pubblico, stato, ordine. Nessuno sa esattamente in cosa consistono, perché esistono e soprattutto i pareri sono discordi. Fantasmi quindi, inafferrabili, estremamente resistenti alla critica benevola o costruttiva, come si dice, perché dotati di un'incredibile capacità di assorbimento delle mezze opinioni, degli all'incirca e delle critiche superficiali. Il potere scava di continuo l'abisso tra questi concetti ideologici e la maternità tuttavia innegabile dello sfruttamento, dell'oppressione, dell'ingiustizia e dell'assenza di libertà. Si parla di economia come se fosse qualcosa di separato dalle ore di lavoro che si svolgono soffocando, come se non riguardasse gli abiti che tutti indossiamo, fabbricati da milioni di schiavi in un paese lontano. Si parla di ordine senza rendersi conto che questo concetto applicato alla realtà riguarda per esempio le migliaia di migranti morti alle frontiere. Si parla di reclusione, di punizione, di giustizia, ma colui che parla è difficile che trascorra i suoi anni in 9 metri quadrati. Lottando smascheriamo il castello di fantasmi e le menzogne su cui poggia questa società, consideriamo le cose in tutta la loro crudeltà, in termini di carne e sangue, oltre il gioco di specchi deformanti delle ideologie, oltre i professionisti del discorso e gli specialisti dell'analisi. Spezziamo le false separazioni tra oggettivo e soggettivo, fra sentimento e ragione, tra riflettere e agire. I nostri pensieri vanno al ritmo dei nostri cuori, che danno la forza alle nostre mani per agire. Nella nostra lotta una delle armi che abbiamo a disposizione è il sabotaggio, l'azione clandestina e distruttrice di chi agisce in un territorio ostile, dietro le linee del nemico. Invece di ingaggiare una battaglia frontale e di soccombere davanti alle difese ipersviluppate del sistema per impedire la costruzione della max prigione, abbiamo proposto il sabotaggio, danneggiare, nuocere e distruggere gli ingranaggi della macchina che si appresta a costruire questa abbreviazione carceraria. Le imprese che la costruiranno, gli architetti che tengono la matita in mano, gli ingegneri che calcolano la maniera più economica e sicura per rinchiudere un essere umano, le banche e le istituzioni che la finanziano, i politici che l'acclamano e la giustificano. Mentre il potere prepara il suo valzer di fantasmi e assunti discorsi sul sovraffollamento, sulla sicurezza e la giustizia, il sabotaggio fa emergere la materialità di tutto ciò che ha a che fare con la maxi prigione. Oltre ad impedirne il normale funzionamento, il sabotaggio semina il disordine nelle file del nemico, che non può sapere da dove arriverà il prossimo colpo. Una volta tocca alle finestre di uno studio di architetti a dare in frantume durante la notte, un'altra volta è un edificio di ingegneri ad essere preso dall'assalto di giorno, e un'altra volta ancora le fiamme devastano i macchinari di un cantiere e i depositi dei costruttori di prigioni. Il sabotaggio disorganizza il nemico ed è disorganizzandolo che questo diventa incapace di raggiungere i suoi scopi, come quello di imporre una maxi prigione a Bruxelles. Perciò alla larga dai discorsi dei politicanti, delle chiacchiere con i giornalisti, dalle illusioni legalitarie dell'opposizione cittadinista, dagli ipocriti bla bla bla. Demoliamo il castello dei fantasmi. Ricochet numero 6, maggio 2015. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Analogic Guerrilla, il brano è FK e poi FK e poi dopo si torna qui con la lettura della sindrome lunare di Vittorio Curtoni. Sui temi di questa solitudine che è realmente infinita, le loro percezioni del reale si sono ridotte a un nucleo talmente essenziale e povero da non rappresentare più ai miei occhi che un borbottio incoerente. Le loro parole somigliano alla immobile quiete del deserto tra le cupole, rammentandomi per una feroce associazione di immagini la mia vita, la mia ragione stessa dell'esistenza. Eppure insisto, continuo, anche ora, mentre dovrei invece dormire, ma fino a che punto la diversità dei ritmi fisiologici incide sui processi della psiche? Anche ora sono qui davanti al fonolaser e, detto ricordi, detto impressioni, per riportarle su ai territori di Luna 1. Non mi stanco di riascoltare le loro divagazioni che hanno il fascino leggermente morboso della letteratura surrealista e che, purtroppo, non nascono dalla fantasia di uno scrittore. Vorrei esprimere, se questo mi fosse possibile, l'angoscia che provo per queste creature, l'ammirazione per il loro coraggio, la consapevolezza di tanta inutilità e l'amore che sento crescere minuto dopo minuto per quello che di buono, di sano, è rimasto nelle loro memorie. Confondono, inventano, sospirano, ma mi chiedo se la colpa sia nostra, come prima o poi inevitabilmente sarà dimostrato, oppure di un meccanismo di difesa automatico, inconscio, che è scattato fin dai primi giorni. Inutile comunque è interrogarsi in questa prospettiva se esiste una risposta univoca, non sarò io a ritrovarla. Ci penseranno i nostri tecnici, i nostri capaci scienziati, quelli che non hanno intuito possibilità diverse. Claretta è così patetica nella sua immobilità, inchiodata su una poltrona che non si sposta di un millimetro, ma non posso fare a meno di compiangere Antonio, velleitario, immaginoso, spavaldo, che ora dorme appoggiato alla finestra e stringe il suo fucile ad aria compressa. Sognerà probabilmente di cacciare le volpi verdi di cui continua a parlare. Non sarà certo stanotte che gli riuscirà di sterminarle tutte, domani forse, se l'alba sarà propizia. Vorrei provare a togliermi la maschera, ma ho ancora paura. Girare per 4 giorni fra le loro mura non è stato utile, non è servito a niente. La barriera di diversità che ci separa non è crollata e ancora mi resta la curiosità di sapere come, sotto quali spoglie, mi abbiano inglobato nei loro incubi. Probabilmente non lo saprò mai. Fuori il cielo è terso, limpido. Curioso anche come l'immagine delle piogge si sia incisa con tanta fissità nei loro occhi. Forse perché è stato il periodo migliore, la pausa più divertente dopo l'ansia dei suicidi. E dunque, eccomi qua. Traditore, spergiuro. Tiranno, stanco delle loro vite. Io, che poi lassù sono solo una pedina da 2 soldi. Potranno mai perdonarmi? Potranno mai capire? Oh, andrà avanti all'infinito, per sempre, sotto questo cielo buio che per ora non contiene più minacce. Chiudo la prima giornata. Renato. Stamane mi sento in forma, come dire, riposato. Ho avuto occasione di ripensare a tutto quello che ci siamo raccontati ieri e quello che mi dici adesso non fa che confermare l'esattezza delle mie supposizioni. Vuoi una bibita, un whisky, qualcosa? Ragazzo mio, è su. Ti si slogherà il polso se continui a scrivere a quella velocità, ma vedi tu se per te va bene. Ah, sì, è giusto. C'è stata questa frenesia di morte e quando l'ondata è passata non si è più riusciti a fare il conto dei vivi e dei morti. Era già tutto crollato, capisci? Prova ad immaginare la nostra bella civiltà messa in ginocchio dall'improvvisa, incontrollabile voglia di gettarsi giù da un balcone e fracassarsi così al primo schioccare di dita. Le fabbriche ferme, l'energia che non arriva più da nessuna parte, le comunicazioni dunque impossibili, un'orgia di spavento e di incredulità. Io? Cosa vuoi? Io sono rimasto lì con una moglie e 2 figlie, poi anche loro 2 si sono buttate giù in una notte di luna piena, uggiolando come cani. Sì, è stato pauroso, credimi. A tutte e 2 erano spuntati peli lunghissimi sul viso e unghie ad unche. Veri e propri licantropi. Se noi non fossimo stati loro genitori, probabilmente ci avrebbero scannati vivi da farsene addosso. E invece si sono prese per mano e si sono lanciate. Stavamo di casa al 103° piano o qualcosa del genere. Non è rimasto niente, il che è logico, mi pare. Beh, concedimi. Sì. Permettimi che mi scappi qualche lacrima. In fondo erano sempre figlie mie, per quanto licantrope. E poi non mi avevano mai dato preoccupazioni prima d'allora, o almeno credo. Certo, in quei giorni, naturalmente nei primi giorni, c'era una teoria che girava, perché poi dopo non si è capito più niente. Quando ancora uscivano i giornali, sai come va, un mucchio di cervelloni si sono messi a discutere sul come e sul perché. Uno è saltato fuori a dire che era successo qualcosa nell'inconscio collettivo. Questo tizio, che se non sbaglio si chiamava Freund, che era, sì, un tedesco, e anche questo è naturale perché sono sempre stati tedeschi a raccontare le più grosse cazzate che si siano mai sentite, diceva che si era guastato qualcosa nell'inconscio collettivo. Ma che nome buffo, eh? Ma sono proprio certo, guarda, parlava di questo inconscio collettivo. Cosa sia, non saprei proprio dirtelo. Comunque questo Freund diceva che si era rotto e non reggeva più la pressione di... Accidenti, non mi ricordo. Non mi ricordo degli eventi esterni, diciamo, capisci? Più o meno questa storia dell'inconscio collettivo era un po' come un serbatoio dove si andavano a raccogliere i ricordi e le immagini di tutta l'umanità. E a un certo punto il liquido che questo serbatoio conteneva ha cominciato a traboccare da tutte le parti, le tubature facevano acqua, per così dire, e quest'acqua è saltata fuori, come la chiamava? Ah sì. La pulsione di morte. Diceva che l'inconscio collettivo si era tutto bucherellato e non reggeva più il peso di quella cosa lassù, e c'era troppa pulsione di morte, per cui la gente si buttava giù dai balconi o dal 30° piano, magari come le mie due figlie poverine dal 303° piano. Aveva anche trovato un bel nome per la faccenda, uno di quei paroloni che ti riempiono la bocca solo a pensarli. E la gente ci godeva un mondo a discutere nei salotti, si diceva è questo e quello, no, ma non è possibile. Poi uno tornava a casa dalle benedette riunioni mondane, spalancava il balcone, prima buttava giù moglie e figli e poi si buttava giù lui. No, mi spiace, no, quel parolone non ricordo quale fosse, ma aspetta, dove vai? Vuoi correre da quell'idiota di Antonio? Che cos'è che ti importa? Quello va a caccia di farfalle e crede di ammazzare i giganti, che è Don Chisciotte, è picchiato in testa, se ancora non te ne sei accorto. Non si rende conto di quello che fa, va avanti come una macchinetta, all'ossessione della guerra. Che pena. Però, oltre la pena, quello che volevo dirti è che circolava anche un'altra teoria, e personalmente le ho sempre dato maggiore credito. Mi sembrava più consistente, più solida, l'inconscio collettivo. Balle, belle e buone per tenere calmi i bambini, ragazzo mio, chi ci ha mai creduto? No. C'era roba molto più seria in giro, ed esistevano i documenti, le prove, la dimostrazione della terribile realtà. Mi stai a sentire? È stato un certo Hitler, uno stregone australiano, a mettere chiaro tutto. Te l'ho detto, l'Australia l'avevamo appena scoperta, terra giovane, non contaminata dalle schifezze della nostra civiltà, gente in gamba, intelligente, piena di vita. Loro non si sono mica suicidati, accidenti. Anzi, se ti capita, fai un salto in Australia, lì troverai ancora tutti vivi e vegeti, e sarà molto interessante, immagino, per te. Insomma, ad ogni modo, questo si è accorto che esisteva una gigantesca cospirazione nel napoletano. Ed era da lì che partiva tutto. Ti ripeto, lui aveva fornito persino le prove, ma nessuno ha voluto dargli... Sì, nessuno gli ha dato ascolto. Ci ha provato però da solo. Ha messo in piedi dei fantastici forni crematori che facevano fuori, credo, un 200.000 napoletani al giorno. Ma i napoletani erano troppi e continuavano a crescere. E poi... E poi l'hanno fregato. Che deve essere morto anche lui, mi pare, buttandosi dall'ultimo piano di un bunker che si era fatto costruire per i casi di emergenza. Ma sì, ne hanno parlato tutti i giornali. Si è gettato, abbracciato con la Claretta Rommel, la sua amante. Il fatto che questo Hitler aveva scoperto è semplicissimo. Tutti i napoletani sono vampiri e quindi vogliono succhiare il sangue della gente. Però i napoletani erano molto pigri perché vivevano vicino al polo e il freddo gli metteva una specie di torpore nel corpo che gli impediva di muoversi come volevano. E allora che cos'è che facevano? Comparivano all'improvviso alle spalle della gente quando uno si trovava su un terrazzo o in alto su un grattacielo e lo buttavano giù. Dopodiché volavano in strada e succhiavano tutto il sangue che gli pareva. Elementare, no? C'erano le prove, accidenti. Sì che c'erano le prove. I have a dream. Questi erano Signal Out 42 con il brano My Dream. Ora si ritorna alla controinformazione e leggiamo la seconda parte del testo preso da Finimondo. che è una seconda parte separata praticamente dal testo, si chiama Il principale architetto della maxi prigione e la sua responsabilità. È lo stesso testo, però è suddiviso in due capitoli. A metà febbraio 2015 alcuni sconosciuti hanno appiccato il fuoco alla casa di tal Philemon Wachelier a Bruxelles. Una deflagrazione è risuonata nella notte, bruciando la facciata dell'edificio, l'automobile parcheggiata nel cortile e causando un principio di incendio in una stanza della casa. A generare l'esplosione e il fuoco sarebbe stato un congegno incendiario composto da una bombola di gas immersa in un contenitore pieno di benzina messo sotto pressione. Colui che è stato preso di mira non è uno qualsiasi, si tratta infatti del principale architetto della futura maxi prigione, amministratore generale dell'ufficio di architetti Bureau 2 e Archi 1, che si riempie le tasche disegnando le future gabbie della maxi prigione. Se la sua abitazione è stata presa di mira, probabilmente perché qualcuno ha voluto chiedergli conto personalmente della sua responsabilità individuale e di oppressione in questa opera di repressione. Nelle carceri esistenti è già così, e nella maxi prigione sognata dal signore Wachelier migliaia di individui soffriranno sotto la sfezza della legge, marciranno nelle celle, saranno torturati dai colpi dei guardiani e dalle innovazioni tecnologiche di controllo disegnate dal signor Wachelier, e tenteranno di scalare le mura di cui il signor Wachelier ha calcolato l'altezza, scaveranno i cunicoli per aggirare le fondamenta di cui il signor Wachelier ha stabilito lo spessore, segheranno le sbarre che il signor Wachelier ha assicurato ai datori di ordine, resisteranno ai sogni di libertà in ogni colpo sferrato contro questo edificio di sofferenza e di tortura legale contro la sua costruzione, risuonerà altrettanto la responsabilità del signor Wachelier, che ha scelto di servire precisamente in qualità di gran maestro responsabile l'opera depressiva. Nessuna sorpresa quindi che l'eco sia già arrivata fino all'uscita di casa sua. Questo è stato tradotto dalla Cavalle, non lo sappiamo chi è la Cavalle, però comunque lo ricordiamo, testo intero l'abbiamo preso da sito finimondo.org. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Alterior, il brano è In Vitro, e poi dopo si ritorna qui con due letture di seguito di La sindrome lunare di Vittorio Curtoni. We'll be right back. Claretta. Ora io ti riconosco. Tu non sei mica mio padre. Mentivi quando ti sei presentato sotto le sue spoglie. E lo so che i morti non possono risorgere dalle bare. E lui, invece lui, giace là, per sempre. Per sempre prigioniero di quei pochi metri di terra che lo costringono da ogni lato, costretto a non muoversi, immobile, a non respirare, a fare finta di essere morto. Perché? Perché sì, perché se lo scoprono probabilmente per lui ci saranno solo le fiamme dell'inferno. E non se lo merita. Non era mica un uomo da finire così. Era un santo, un asceta. Tu devi essere una di quelle creature che la notte rigurgita dal suo nero mantello, come mi raccontava sempre il sacerdote che ci insegnava il catechismo. E non mi toccare! Tieni lontane quelle zampe, non sei degno di entrare in contatto con me che sono un essere umano. No, non puoi, non devi, il demonio ti porterà con sé. Vorrei solo che ti togliessi quella cosa oscena che porti sul viso e che non facessi finta di essere comprensivo, buono, intelligente. Tanto lo so che sei venuto per farci del male. Per distruggerci, tu e le tue orde maledette di mostri sputati dall'aldilà. Senti, lo senti il mio cancro che cresce, si ingigantisce, batte sui ritmi che non sono conosciuti agli uomini. Ecco, appoggia il capo, voglio che lo ascolti. Tu, perché possa renderti conto del male che ci avete fatto, delle sofferenze che stiamo vivendo per voi senza averne colpa. Non guardarmi così, non fingere, e togliti quella cosa. Non la sopporto, non ti posso più vedere come un fantasma. Sei reale, sei vivo, sei semplicemente un mostro. No, le mie notti tu non le conosci, non sai come tendo il respiro ad ogni scricchiolio. Non sai come sussuto ad ogni muoversi dei corpi, perché spero sempre che lui venga a trovarmi. Lui, il mio sposo, il mio uomo, quello che ho scelto per la vita. Ho questo ventre che geme dalla voglia di essere posseduto e non mi importa del dolore, non voglio nemmeno pensarci, non ha nessun peso. No, non conta, vedi? Io gli aprirei le gambe e gli farei capire che sono qui, che non aspetto altro, che il mio corpo è ancora suo. E potrei morire in un solo abbraccio, consumarmi tutta nel fuoco di un amplesso. Il cancro è solo una fase passeggera, una transizione di poco conto tra la vita e la morte. E non mi spaventa. Quello che odio davvero invece è il silenzio. Il frusciare di queste coperte, l'immobilità sul letto, l'attesa inutile. E tu adesso invece stai urlando. Vuoi strapparmi l'anima. Ridesti tutto. Lo so che questa non è realtà, che è una bugia, che potrei marcire nei secoli senza mai muovermi. Ma tu perché me lo chiedi? Non sai già tutto, non sei informato, no? Non ricordi? Eh sì che ce l'avevo un nome. Un nome lungo. Sindrome lunare la chiamavamo. Non chiedemi perché, non lo so. Sindrome lunare, comunque. E ora sì, ora alza la testa, vai, fuggi. Non ti voglio più vedere, la sindrome lunare. Mio Dio, perché risvegli questi ricordi? Ma non è un letto, non è un letto. Non posso alzarmi. Io non credo più a nulla. Ascolto solo il cancro che cresce, cresce. E tra poco il mio corpo non esisterà più. Non esisterà più nulla. Ci sarà solo il cancro, un cancro, sì, un cancro in attesa di qualcuno che venga a penetrarlo. Renato. Effettivamente la chiamavano sindrome lunare, tutta questa faccenda dei buchi dell'inconscio collettivo, perché c'erano i russi, sì, i russi erano arrivati sulla luna, capisci? Antonio. Ma che russi? Erano americani e cinesi. Quei porci fetenti hanno costruito una base senza dire niente a nessuno, dalla parte dove non c'è mai luce, come si dice, la faccia scura della luna o qualcosa del genere, the dark side of the moon. E si sono messi lì come belve, sempre in agguato, sempre pronti a colpire. È per tutto questo che la gente ha cominciato ad avere paura. Sì, sì. I giornali ne hanno parlato per un po'. Hanno dato la notizia, ma poi sai come vanno queste cose. Silenzio improvviso. E guarda, guarda, sì, che allora avevamo proprio una civiltà coi fiocchi, mica come adesso che tutto è andato a gambe all'aria. Voglio dire, c'erano i telefoni, c'era la televisione, il cinema e cose simili. Non eravamo bestie, eravamo ancora uomini. Perché andare al cinema, per esempio, era bellissimo. L'unico pericolo era che ogni tanto volava fuori qualche cosa dallo schermo e se ti beccava, eri fritto. La tecnica doveva ancora essere perfezionata. Ecco, ricordo quella volta che ci fu quell'incidente al Metropolitan di Leningrado. Un treno intero schizzò fuori dallo schermo perché aveva deragliato e travolse tutti gli spettatori, dal primo all'ultimo. Anzi, altro che, arrivò fino in piazza e fu proprio una strage, un macello. E le compagnie di assicurazioni pagarono cifre colossali, roba da impallidire. C'era gente che scommetteva, tipo, vediamo un po' se oggi ne ammazzano qualcuno, se non succede niente. Andava a giocare in borsa con le azioni del pubblico. Un sistema leggermente complicato, sì, ma sì, devo dire, funzionava bene. Davano 10 azioni ad ogni tizio che andava al cinema, praticamente azioni sulla sua pelle. E poi aprivano i botteghini e accettavano scommesse. Se uscivi vivo potevi anche ritrovarti un bel gruzzoletto, però in genere al cinema si crepava perché qualcosa succedeva sempre. Poi sai che ridere, a che cosa servono oggi i soldi? Dimmelo tu, a che cos'è che possono mai servire? Sì, sì, lo so che a te interessa solo la storia della base sulla Luna, ma vedi, a parlarne non mi sento troppo bene, anche se francamente non capisco il perché. Mi sta venendo il sospetto che tu con quell'aggeggio lì, con quel registratore, ci stia un po' fottendo tutti, o almeno stai fottendo me, perché saranno anni che non mi veniva il mal di testa e invece è tutta la notte che mi ballano gli occhi e non sono riuscito a farne fuori neanche una di volpe. Poi tu francamente spari che è uno schifo, è una mira da cane, anzi sai cosa ti dico? Stanotte faccio da solo perché gli incapaci non mi servono, senza offesa, però intendiamoci, tu vai bene col registratore, io me la cavo con i fucili. Il fatto è che abbiamo gusti diversi. Ah, a proposito di gusti diversi, lo sai che mi viene in mente? Mi viene in mente che è stato proprio al cinema che ho cominciato a interessarmi delle volpi verdi, eh sì, perché ero entrato per vedere un film che chissà cos'era e invece proiettavano questo documentario sulle volpi verdi. Le vedevi strisciare nell'erba, belle mimetizzate, e saltare addosso ai bambini che dormono, zac, un colpo alla gola e li facevano secchi. Altro che film dell'orrore! E non ti dico quando ne è volata una fuori e si è messa a correre tra i piedi della gente. Tutti urlavano come disperati, anzi qualcuno ci è rimasto pure, ma io che sono furbo, mi ero seduto nelle ultime file e ho fatto in tempo a scappare subito. Mai, mai sedersi nei primi posti quando si andava al cinema. È da allora che l'ho giurata, dovevi fargliela pagare. Troppe ne hanno fatte a noi altri. Troppe, troppe, troppe ne hanno fatte a noi altri uomini. Angela. Non è vero che tutti siano così volgari e prepotenti, sai? Guardandoti, anzi, mi viene voglia di raccontare la verità, di scavare in fondo e vedere fino a che punto sto inventando, oppure ricamo su ricordi fasulli, oppure dico bugie a me stessa. Mi fai questo effetto, semplicemente. Sarà perché hai quel faccino da angelo innocente? Scommetto che sei ancora vergine. Sai cos'è? Il fatto è che dal primo momento, voglio dire, da quando siamo scappati qui e fuori, pioveva da un mese o da un anno, non lo so. Insomma, da allora io ho cercato di portare le cose sul lato del sesso. Perché in fin dei conti era l'unico lato che mi interessava. Mi sembra che mio marito sia sempre stato una specie di pappamolla che a fare l'amore non ci pensava molto e tra l'altro è pauroso, ma non riesco mai a ricordare se mio marito è Renato o Antonio, o forse era Riccardo, quello che poi abbiamo sepolto in giardino perché qualcuno gli ha spaccato in testa un posacenere di quelli grossi così e gli ha aperto in due il cranio. E allora, sì, allora mi sono detta, qui tutto sta per finire. E chi se ne frega? Continuerà a piovere per i secoli dei secoli e tutta quanta la terra si consumerà, si scioglierà sotto questa pioggia che lava via anche i peccati. Su, diamoci da fare, che cos'è che importa? Dio sarà scappato da qualche parte. su un altro pianeta, magari per altre creature, forse sulla Luna, con quei disgraziati che ci stanno ammazzando. Insomma, cerca di capirmi, io ho perso la fede, la dignità, l'onestà, tutto. Con te? Credimi, non lo ammetteranno mai, perché in fondo sono ancora dei cavalieri, dei romantici, ma sono stata io a cominciare a infilarmi in un letto e poi nell'altro e a fare l'amore con tutti, persino con Claretta, che da un po' di tempo non vedo più e non so mica che fine abbia fatto. Non vedo più nessuno, a essere onesta, e sai, io credo di parlare con Antonio, con Renato e alle volte anche con Riccardo, ma in realtà, sì, in realtà parlo da sola, anzi no, parlo con i loro doppi che girano per casa sempre mezzi nudi, hanno i loro schifosi uccelli beduri, te l'ho già raccontato mi sembra, mi infilano come se fossi una puttana in un bordello di poco prezzo, gratuito addirittura. Sì, è vero, spiegartelo non è facile, perché pioveva e il mondo era quasi deserto e noi eravamo fuggiti dalla nostra città perché non c'erano più speranze, non c'era un domani, e io poi avevo perso tutto, anche mio figlio che si è gettato dal balcone, anche le due zie con cui vivevo, restava solo mio marito, ma portavo sempre dentro in ogni secondo il ricordo di quel giorno quando camminavo fra il puzzo di morte e il sangue che collava dappertutto, e quel bambino, sì, quel bambino che si è buttato giù e quasi mi ammazzava. E in effetti aveva un freddo terribile, un freddo per tutto il corpo che non voleva andarsene, che mi mordeva. E l'unica parte di me ancora calda, ancora viva, era lì giù, in basso. La cosa, insomma, mi hai capito, solo di quella cosa di cui potevo disporre. E quindi che cos'è che dovevo fare? Su, dimmelo tu. Se hai una risposta migliore, io non l'ho mica trovata. E allora... via, a infilarmi in un letto, in un altro, per tenere calda la fiamma, per sentirmi vivere, per non dover morire. E adesso, certo, sì, adesso continuo per forza, adesso sì che sono prigioniera, ma non posso più tornare indietro, proprio non ci riesco. E mi chiavano i muri, le porte, i rubinetti, le maniglie, i fantasmi, gli incubi. La cosa più atroce, la cosa più spaventosa è che da allora nessun uomo vero mi ha cercata. Mai più. Per televisione hanno trasmesso, certo, una vita fa, ma tu mi prendi sempre nei momenti di lucidità, maledetto. Quando ricordo da sola è così che mi strappi le confezioni, sì, le memorie. Dai, appoggia qui il capo, mettilo sul mio grembo e ascolta il cancro che urla la sua canzone. E se ti è possibile, togliti quella cosa dal viso, ma se non puoi non fa nulla. No, non importa, vorrei solo che tu fossi mio marito e mi prendessi adesso, subito, per l'ultima volta. Non posso accettare l'idea di morire senza tornare a sentirlo su di me come prima era sempre, ogni giorno e ogni notte. Hanno costruito la loro base sulla faccia notturna della luna e hanno fatto vedere tutto per televisione, perché allora c'era il gusto del trionfo. Chi erano? Non lo ricordo, ma non credo faccia differenza. Russi, arabi, americani, africani. Lo stesso, sono andati lassù solo per distruggerci. E ci sono riusciti. Si muovevano piano su quella terra grigia, arida, come un rallentatore, chiusi nelle tute bianche che abbagliavano gli occhi. C'erano lampade, c'erano riflettori, una grande luce artificiale, perché là esiste solo il buio, e invece dovevano mostrarsi, prenderci in giro, raccontarci di persona, anche quell'ultima beffa. La crudeltà dell'uomo è sempre stata una cosa inspiegabile, e ora che tutti noi stiamo per scomparire, ora che l'intera razza finirà nel gorgo dell'annullamento, guarda le ultime immagini che ci rimangono. Sì, sono queste creature bianche nelle loro tute che si muovono su un paesaggio di cartapesta. La voce stupida di qualcuno che racconta le difficoltà superate e spiega il magnifico avvenire della base, e poi più sotto c'è quell'odore di morte che si infila ancora nelle narici di chi lo ha vissuto. La bara di mio padre calata nella fossa, i bambini e le bambine, le donne e gli uomini che si gettano sulle strade perché hanno paura, perché quella cosa lassù li spaventa, e perché non c'è altra via d'uscita. Oh sì, certo, veramente le spiegazioni, il gran parlare della sindrome lunare, delle alterazioni dell'inconscio collettivo, ma è successo tutto così in fretta che nessuno ha potuto eseguire controlli, verificare i dati, rendersi davvero conto. 2-3 settimane sono bastate per gettarci nel caos più totale, e poi non si è capito più nulla, e non c'era nemmeno motivo di capire, bisognava solo stare attenti a dove si camminava, a cercare di non farsi travolgere da chi ti volava sopra la testa, resistere alla tentazione di urlare, di buttarsi. È stato un bel suicidio, certo, degno della nostra grandiosità e dei nostri discorsi, è così pietoso considerarlo da vicino, ma sì, io ho un sospetto, anche se non ne ho mai parlato con nessuno, anche se l'ho sempre conservato come un prezioso segreto. Vuoi saperlo? Ascolta, te lo racconterà il mio ventre malato, te lo canterà il mio cancro, se appoggi bene la testa così e chiudi gli occhi e fingi di essere uno dei nostri, e però prometti che non vuoi più farci male. Renato. La verità è che da un certo punto in avanti non si è capito più nulla nella maniera più assoluta. Te l'ho già detto. Erano saltate le comunicazioni, non si poteva uscire di città per il pericolo delle infezioni. Insomma, si era tornati indietro di secoli e di millenni. Non è che sapere dei danni dell'inconscio collettivo ci potesse aiutare molto, voglio dire, noi altri sopravvissuti, che poi eravamo che un pugno di gente, ma hai idea? Nessuno che fosse capace di seppellire i morti, di fare un censimento, di rimettere ordine. E così in pochi eravamo, così in pochi. E ricordo la stupefazione di tutti, il guardarsi in faccia per chiederci cos'era successo, com'era stato possibile, se era davvero finita o doveva ancora andare avanti, non fermarsi più. Non si capiva niente, non c'erano speranze, ma a noi ci terrorizzava il pericolo delle lebbra, del tifo, che potevano scoppiare da un momento all'altro con quei cadaveri già marci, tutti sparsi in giro in ogni angolo della città. E la radio taceva. Nessuno che ci dicesse niente. Il governo volatilizzato. I servizi inesistenti. La paura in gola. Che sia cominciato a piovere è stata quasi una fortuna, almeno nei primi giorni, perché l'acqua spazzava via i germi, scioglieva le carogne e puliva l'aria. A me veniva voglia di uscire nudo, a mettermi a ballare sotto la pioggia, e ringraziavo il cielo di essere tanto misericordioso. Eh sì, a Claretta lo raccontavo sempre, e lei annuiva e non diceva niente. Forse lei sapeva già come sarebbe andata a finire, ma... Sì, scusami, ma... Perché mi fai raccontare queste cose? Accidenti a te. Vorrei mettere, Angela dice, in chiaro le mie colpe. Confessarmi di tutto. Tu sei una specie di angelo che il Signore mi ha mandato per riportarmi sulla retta via, anche se non credo più, anche se la tua opera sarà molto difficile. Vedi, io vorrei tanto potermi ripulire da quello che ho dentro, prendermi una purga spirituale, se l'espressione non ti scandalizza, ma il fatto è che io non so da dove cominciare, e poi non sono mica sicuro di avere fede, non sono certa di poter parlare liberamente al nostro creatore. Sì, certo, sì, il peso dei nostri peccati è enorme, assillante, e forse raccontare a te basterà, sarà sufficiente. Non credi, però allora dimmelo tu. Sì, sì, è vero, sono stata io a cominciare tutto, a dare il via a quello scandaloso scambio di coppie. Stamattina te l'ho già raccontato, avevo freddo, ero calda, solo lì, e non vedevo alternative. Sai, quando siamo partiti, eravamo noi cinque, voglio dire noi quattro più Riccardo, che non c'è più, e siamo venuti qui in montagna perché Riccardo aveva questa casetta e diceva che si poteva ricominciare, che avremmo fatto un nucleo compatto, che la razza umana sarebbe ripartita da zero. Noi saremo Adamo ed Eva, Caino e Abele, Marx e Rosa Luxemburg, gridava Antonio quando ci siamo messi in marcia. Già l'automobile era piccola e in cinque si stava stretti, ma se non mi sbaglio era l'unica che funzionasse ancora, e così ci siamo dovuti accontentare. Era lunga la strada dalla città a qui, non è mica uno scherzo, poi gli unicorni si mettevano continuamente di mezzo, come se loro, perlomeno loro, si divertissero. Quelle bestiacce sono intrattabili, hanno un carattere spaventoso, e sembrava che loro nell'acqua ci si trovassero benissimo, il loro elemento naturale. Ecco, era come se l'acqua fosse il loro elemento naturale, e mi infastidivano terribilmente. Poi davano cornate alla macchina, ci sballottavano di qua, ci sballottavano di là, facevano un casino che non ti dico. Unicorni a parte, è stato allora che ho cominciato a visualizzare il nostro futuro qui, e mi pareva molto squallido, insignificante. Avevo in testa le immagini del mondo moribondo. Mi ripetevo la litania della gente che volava giù dai balconi, e non vedevo un senso nel nostro tentativo. Oh! Renato era bravo a cantare lodi, a fare finta che le cose funzionassero a un ritmo normale, ma no, non ingannava nessuno, non me almeno. E poi glielo leggevo in faccia, a tutti, che si faceva tanto per fare, per non calare le braghe, ma che in effetti non ci credevamo. Eh sì, allora io ero presa da queste prospettive deprimenti, cerca di capirmi, non sapevo dove sbattermi, non contavo più niente, nemmeno per me stessa. Ecco, in quella macchina pensavo a cose del genere, e i giorni del viaggio passavano col contagocce, e la notte si dormiva al freddo, chiusi nei sacchi a pelo coi sedili abbassati, il bagagliaio spalancato sulla pioggia, altrimenti non ci saremmo stati. Ed è stato così, più per curiosità che per altro, per vedere che tipo era, se ci sapeva fare, se era capace di riportarmi alla vita, che La seconda o terza notte mi sono messa vicino a Riccardo, nuda, e gliel'ho preso in mano e gli ho chiesto di farmi tutto quello che voleva. Com'è che posso spiegartelo? Come posso farlo capire a te che non sei una creatura di questa terra? E che di certe esigenze non conosci neanche il sapore, l'odore, il ritmo. Eh sì, non so, ma io credo che è stato magnifico, sublime. Quell'ansimare sotto luce tra lo sportello del bagagliaio e l'acqua che cadeva a scrosci, facendo tutto piano perché gli altri non si svegliassero, non ci sentissero nemmeno. Una ginnastica purificatrice. E anche mi sembrava l'unico modo di farla pagare a quei porci, lassù nella loro schifosa base lunare, di essere viva in barba ai tentativi dell'assassinio e alla loro malvagità. Eh sì, per colpa mia è cominciato in questo modo, lo so, non lo nego. Ma oramai, che posso farci? È già la notte successiva. È arrivata Claretta, che ci aveva spiati senza dire niente agli altri. Si è buttata come un falco sopra Riccardo, gliel'ha preso in bocca, implorava di essere baciata e chiamata. Nessuno, no, nessuno poteva tirarsi indietro, non certo a quel punto, perché la ruota, the big wheel, la ruota girava già, l'ingranaggio si era già messo in moto. Non so se tu puoi avere una pallida idea, non c'era più scampo, the big wheel. Chi lo sa? Chi lo sa poi perché le persone si sono moltiplicate, divise, frammentate e ricomposte? Tanto che quando siamo arrivati qui, in questa casa, quando abbiamo spalancato il vecchio portone di legno, la prima cosa che abbiamo fatto è stata precipitarci sui due letti matrimoniali e rotolarci lì per un intero pomeriggio, senza sosta, senza interruzioni, fino ad estrarre l'uno dall'altro tutto il possibile, tutto il concepibile, come su una giostra di corpi aggrovigliati. Dirlo non vorrei, ma immagino sia stato perché avevamo addosso il lerciume della morte. Tranquilli, non ci sentivamo o pacificati con nulla, e ci sembrava a tutti che il solo modo di esorcizzare i fantasmi potesse essere il sesso, fatto così come capitava magari mentre io mi preparavo a mangiare e qualcuno di cui non sapevo neanche il nome mi arrivava alle spalle e mi prendeva in piedi facendomi venire, sì, di colpo, col cibo che scivolava sul lavandino e le pentole che cascavano in un angolo oramai diventate inutili. Scambio delle coppie? Ah, ho detto scambio delle coppie prima? Tutto da ridere. Era solo uno scambio di corpi, di voglie, di cose che non si potevano dire, e allora si facevano direttamente, senza chiedere il permesso a nessuno. La sindrome lunare era una storia sepolta nel passato, un'idea passeggera su cui non ci andava di riflettere troppo. Esistevamo noi, punto e basta. E quella grande voglia, quel grande desiderio generale, quella fregola di penetrarsi, leccarsi, baciarsi, uomini con donne, donne con donne o uomini con uomini, poco importava, era sempre lo stesso succo, sì, lo stesso sfogo. Ma ricordo che in certi momenti guardavo dalla finestra, all'esterno c'erano gli unicorni cavalcati dalle fate, e allora mi sorgeva dentro il sospetto che prima sì, tutto andasse in maniera diversa, e già intuivo questa frammentazione che adesso ci ammazza. Ne avevo paura perché sapevo che dividendoci non saremmo stati più gli stessi. L'amore si sarebbe interrotto. Io non avrei avuto più baci. E tutto, infatti, tutto è precipitato quel giorno che uno di noi ha rotto il tavolo in testa a Riccardo. Le candele si sono spente, il silenzio si è fatto sentire. Con il suo urlo che non lascia tracce nelle orecchie abbiamo dovuto seppellirlo fuori in giardino per cancellarne anche la memoria. Chissà com'è ridotto il suo corpo. Ci saranno vermi, le cose che strisciano. Gli passeranno sopra gli unicorni e lui, sì, lui non se ne accorgerà, fermo nel lungo sogno che non avrà mai termine. Renato l'ha ucciso. O forse Antonio? Comunque uno dei due uomini, no, non ne sono certa, certo potrei essere stata io o Claretto, magari Riccardo si è sbattuto da solo il tavolo sulla testa perché non ce la faceva più, perché era geloso, perché tutti eravamo gelosi e non esisteva un interno, non esisteva un esterno, eravamo qui, schiavi del passato, delle cose già fatte, già dette, dell'amore che si era consumato, dei nostri corpi che invecchiavano, della realtà che si sceglieva come un gelato tenuto al sole per troppo, troppo tempo. Adesso però li vedi anche tu, questi doppi che entrano ed escono e se ne vanno in giro con i loro cazzi come bandiere assetate di sangue. Dimmi, dimmi che li vedi per piacere, perché è da quel giorno, da quel preciso momento che non mi lasciano più in pace. E invece sì, invece quegli unicorni, buffo sì, però quegli unicorni sono scomparsi. I know it can't be wrong. I shake it, I move it, I hate this fucking song. I feel it. I like it. I know it can't be wrong. I shake it. I move it. I hate this fucking song. E questi erano NoiseFX con il brano Club Beat. Ora si ritorna alla controinformazione dopo queste due letture di tutte d'un fiato. La sindrome lunare di Vittorio Cutone, è stata bella lunga, complimenti. Io sarei collassato durante la lettura. E allora leggiamo la quest'ultima notizia per oggi per quanto riguarda la controinformazione. Dopo invece ci sarà l'ultima lettura che poi chiude questo breve racconto, La sindrome lunare di Vittorio Curtoni. L'ultima notizia di controinformazione riguarda Marco Kamenich con uno scritto sul parere forense psicologico: nei benefici di socializzazioni, ma solo se. Allora, fine 2014, come da info da Soccorso Rosso anche in italiano, il Tribunale federale aveva rigettato il reclamo inoltrato un anno prima contro il rifiuto del DAP Zurigo della liberazione condizionale. Tuttavia sollecitò l'inizio di una risocializzazione, vale a dire di alleggerimenti, benefici come uscite, permessi, carceri, semiaperto, eccetera, eccetera. Della detenzione per una risocializzazione atta a diminuire il pericolo di recidiva dopo il fine pena, maggio 2018. L'avvocato sollecitava il responsabile del mio caso nel DAP di pronunciarsi sul seguito o meno a tale sollecitazione ed opinione analoga dei due carceri di Lenzburg e Rostadel. Il responsabile dichiarò che dovrà ben procedere in tal senso, ma che prima dovrebbe chiedere delucidazioni non vincolanti alla sezione forense psicologica del DAP nell'ambito della modalità rossa. Questa è una legge 2 Abklärung. Ora ne dovrai leggere un po' perché ci sono un po' di termini in tedesco. Rossa sta per Risikorientiert Strafvollzug, ossia esecuzione pena orientata a rischio, ed Abklärung per chiarificazione ed elucidazione. La Abklärung è una modalità di controllo e di valutazione potenziata al principio dei tre occhi, interna al DAP, dei benefici e delle liberazioni dei clienti pericolosi, introdotta nel cantone di Zurigo e poi scimmiottata finora da altri tre cantoni. Fine aprile 2015, tempi quasi olimpionici, è arrivata questa detta chiarificazione, copia in tedesco in via di diffusione, di ben 24 pagine, insieme all'annuncio che la conseguente pianificazione concreta dell'esecuzione le sarà comunicata circa metà maggio 2015. Su questa pianificazione concreta sarà probabile un'imminente audizione legale del cliente, vale a dire del sottoscritto. Così una detta forense psicologica, basandosi sugli atti, ha partorito la montagna scientifica Risk Assessment standardizzato, valutazione del rischio, con oscenità tanto per rendere l'idea, come PCL-R Psicopathy Checklist Revised R 2003 e punto 2 VRAG Violence Risk Appraisal Guide Harris et 1993 e poi Fortress Urbaniok. Una serie 2006. Di citazioni da studi, pseudo studi diciamo noi, atti diciamo a catalogare le singolarità, le soggettività carcerarie che possono, che stanno per essere liberate, che però devono essere sottoposti a alcuni filtri ed esami. Fortress è un catalogo pseudoscientifico computerizzato con migliaia di caselle per crocettine per calcolare Heil, Lombroso e Toll, questa è una citazione di Marco, cose come la pericolosità sociale e pericolo di recidiva. Catalogo elaborato, applicato e spacciato con reddito milionario collaterale a livello internazionale dallo psichiatra francese tedesco Urbaniok e banda. Del servizio psicologico psichiatrico del DAP Zurigo e di cui è il capo. È pregiudicato in Germania e fanatico perito terapeuta forense che con uguale fanatismo settario produce e perora una sempre più massiccia applicazione dell'internamento a tempo indeterminato. La suddetta addetta da questi popò di punteggi e rilievi standard con l'avallo del suo collega capo sezione psicologo in diritto FSP SGRP prognostico forense IOT, in sintesi trae brava bravina poverina appena l'espulsione della setta urbanoica e l'amara perdita dell'autostipendio del parassita sociale, le seguenti tanto scontato quanto oltremodo nauseabonde conclusioni, raccomandazioni e premesse per una discesa, ossia benefici di socializzazione. In primo piano, ovviamente, la visione del mondo incline al delitto, una piccola psicopatia specifica, ci vuole, no? Ci vuole o no? Poi si desidera la solita dissociazione politica, vale a dire rinnegare tutto e tutti, e in più l'adesione totale al pensiero unico del totalitarismo dello Stato e del capitale attualmente dominante. Si ritiene necessari dei controlli stringenti ed anche una disponibilità del cliente, tra virgolette, a collaborarvi. Una credibile esplicazione di rinuncia e dei possibili atti criminali, sia attivamente nella situazione sia passivamente, pianificando o sostenendo, visto anche di come sarei tanto influente, ed infine con massima e bene o male calcolata infamia tipicamente totalitaria ed impertinente, stupidità e paranoia patologica tipica per ogni piccolo o grande mercenario del potere, divieto di contatto con compagnie a rischio correlato e la ricostruzione di un nuovo ambiente sociale sic. Che dire, certo, finché rimarranno impuniti e rimarranno, imperversaranno. Marco Kamenisch, Bostadel, maggio 2015. Ecco, questo era il testo di Marco, di cui avevamo già pubblicato le motivazioni del Tribunale Federale della Svizzera, per cui non gli aveva concesso la libertà dopo i due terzi della pena già scontata. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Rabbi Junk, il brano è The Big Push, e poi dopo si torna qui con l'ultima lettura che chiude questo breve racconto, La sindrome lunare, di Vittorio Curtoni. Antonio. E dai, se non sei buono a sparare, dammi almeno una mano a caricare i fucili. Mica per far questo mica ci vuole tanta abilità, no? Ah sì, no, perché io sento che stanotte sarà una notte speciale. A mandrie. A frotte verranno, come ai bei tempi quando eravamo in redazione e il primo che acchiappava un operaio nella tipografia aveva il sacrosanto diritto di impalarlo vivo, tanto, tanto così per mettere allegria nell'ambiente. Beh sì, però bisognava arrangiarsi, la vita di un giornale mica è sempre facile, a volte uno si rompe le palle e non si fa quattro risate, e quindi com'è che se la cava? Avanti, avanti, avanti così. Ce ne sono 20 per caricatore di proiettili. Un po' di coraggio, andiamo, te l'ho già detto che non possono, quei proiettili non possono scoppiarti in mano. Ah, sì, scusami, mi chiedevi, mi dicevi di questa storia del sesso. Ah, ma sì, può anche essere che non lo ricordo, perché effettivamente dovevamo partire in 5, però poi mi sembra che il quinto abbia rinunciato. Sì, perché se la faceva sotto all'idea di isolarsi. Caro mio, te l'ho già detto, ci vuole fegato, altrimenti non si combina un tubo. La battaglia o è dura o non vale un accidenti. Comunque può anche darsi che sia venuto e che l'abbiamo fatto fuori, certo. Sì, anche quest'ultima ipotesi, certo che può essere. Ma che importanza avrebbe avuto con tutta quella gente che per mesi interi si era buttata giù dai balconi? Uno in più, uno in meno, il conto tornava lo stesso, amen, e via, senza star lì troppo a pensarci. Però volevo dirti, ecco, sì, questo sì. C'è un particolare strano che non capisco. Se posso parlare da uomo ad uomo, mi farebbe un piacere del diavolo se tu spegnessi quel registratore, ma tanto lo so che non lo spegnerai. Insomma, un bel giorno l'uccello mi è scomparso. Ah, l'uccello, il cazzo, chiamalo un po' come vuoi, quella roba con due coglioni che abbiamo in mezzo alle gambe, sì, si è proprio volatilizzato, puff, Verschwunden, sparito nell'aria. Sarà stato per il troppo uso. Beh, io adesso non ricordo più le cose che mi dici, non sono mica tanto sicuro di essermi fatto tutte quelle chiavate, ma sì, ammettiamolo, allora potrei dedurne che il mio coso se ne sia andato per cavoli suoi, perché era stanco di muoversi su e giù come uno stantuffo. Magari adesso se ne va in giro in aria e appena gli capita sotto mano una fighettina, zac, e si infila e viene, come dire, il cazzo volante. Cristo santo, che idea me ne fai dire tu e di stronzate. Sì che sei un bello sporcaccione. Guarda, però in confidenza, l'unica cosa che ricordo è che pioveva da maledetti e qui non c'era un tubo da fare, sicché io passavo i giorni a oliare i fucili e mi divertivo solo la sera con le volpi. E in fin dei conti è una vita monotona. Non ha più smesso di piovere. Ad andare fuori c'è ancora pieno di bestiacce che non vedono l'ora di strapparti le budelle. E chi me lo fa fare? Eh sì, io resto qui e mi rompo le palle. Renato. Ma neanche dormire si può, eh? Certo, ragazzo mio, sei insistente con quei fogli, con quella matita, ma perché non te la fitti, non te la ficchi in quel posto che so io, eh? Va bene, sì, ok, mi pare di sì, sì. Continuavamo a saltarci addosso e c'era anche questo Riccardo della Malora che se ne andava a zonzo per la casa e si fotteva tutte e due le mie mogli. Dico, però alla lunga, sai, uno si stufa. E lo sai che cosa ho fatto? Gli ho organizzato un bel giretto all'aperto e l'ho buttato in bocca ad un caimano. I caimani ci sguazzano in tutta quest'acqua. Ma che sepolto in giardino? Non ce n'è di giardino, solo sassi, erbacce. E adesso naturalmente il lago che questa benedetta acqua continua a scavare e che prima o poi entrerà fin anche qui. Sì, io me lo sento. Io, i rimorsi? Perché dovrei essere tormentato dai rimorsi? E chi se ne frega che se la casa era sua? E poi anche questo è tutto da stabilire. L'unica cosa certa, se proprio vuoi saperlo, è che io Ho un vago ricordo di quando tutte le faccende erano più normali e non dovevo aspettarmi di vedere scomparire la sedia sotto le chiappe mentre sto per sedermi, tanto per fare un esempio. In pratica, mi sembra che prima che cominciasse a piovere ci fosse più stabilità, più sicurezza. Ecco, forse questo era. Le cose erano quelle che erano, non cambiavano faccia all'improvviso. Invece adesso, adesso non si capisce più niente, si va avanti come si può, ci si abitua, si cerca di non crepare da deficienti e ti assicuro non è mica facile. Notte, Nacht, Night, Nuit. Dopo questa seconda giornata di interviste devo dedurre che la mia presenza ha funzionato in tutti loro come elemento catalizzatore dei ricordi che i gas erano riusciti a seppellire. Claretta in particolare sta ritrovando una lucidità e una capacità d'analisi che hanno qualcosa di sorprendente, a parte la continua ossessiva ripetizione del tema del cancro. Resta da stabilire comunque se si tratti di un'allucinazione soggettiva o di una realtà oggettiva. E la verità è che ho paura di spingere così a fondo l'indagine. Sono inquieto, sono prostrato. Sento che una terribile rivelazione sta per piombarmi sul capo, l'avverto nell'aria, ne ho la premonizione. Non posso sottrarmi al mio dovere, ma nemmeno mi sembra giusto, semplicemente lecito, essere esposto a questa tormenta di richieste che mi assillano e si scavano a fondo grazie alla loro illogicità. Sì, là dentro, nel mio cervello, io adesso sto di vergogna tremando. Gli indicatori del mio rivelatore oscillano su cifre ancora pericolose, ma tendenzialmente rivolte all'azzeramento. È indubbio segno che i gas allucinogeni, come mi avevano assicurato, stanno per volatilizzarsi. Una settimana, forse due, e l'atmosfera sarà di nuovo respirabile. Noi potremmo scendere, riprendere possesso del pianeta, edificare la nuova società tra le macerie di questo mondo che era corrotto e schifoso, ma sì, ma pur sempre umano. Avere il coraggio vorrei, come ieri notte, come ogni attimo che sono qui, di togliermi la maschera e assaporare il gusto della loro immaginazione. Forse sarebbe tanto forte da ammazzarmi sul colpo, ma io no, io non lo credo. Probabilmente sopravviverei, mi integrerei nel loro universo onirico, diventerei a pieno diritto uno di loro. E di consunzione lentamente morirei. Avrei anch'io lo stesso corpo magrissimo che hanno loro. Più a spostare un oggetto non riuscirei, a muovere un dito, a infilare in bocca una razione di cibo. Mi senti? Luna 1, mi senti? So che ascolterete questa registrazione solo fra qualche giorno e vi meraviglierete del mio atteggiamento. O magari no, magari era tutto previsto e allora semplicemente sono anch'io una cavia, un nuovo topo per i vostri esperimenti. Ma però consentitemi di rivolgervi, sì, una semplice domanda: non esisteva davvero una strada diversa? Non era possibile curarli in un modo che non implicasse la distruzione totale? E chiudo la seconda giornata. Claretta, ovvero la fine. Ecco, Adesso te lo dico, tanto, tanto lo so che tu vieni da lassù, che sei una schifosa spia, che sei qui soltanto per assistere alla nostra agonia e magari ti ci diverti, o forse no, boh, chi lo sa. Ti avranno raccontato che doveva finire così, che non c'era alternativa. Loro, gli uomini che passeggiavano piano con le loro tute bianche in quel grande bagliore, che siamo tutti impazziti, che solo voi potevate sopravvivere, che la pioggia avrebbe lavato tutto, uomini e ricordi. E voi, coi vostri gesti al rallentatore, sareste scesi e ci avreste portato alla redenzione, eh? Non è vero? Certo che ti hanno imbottito di idee, certo che ti hanno imbeccato delle loro bugie per non farti pensare, per non farti capire, per darti l'idea della missione nobile. Quella gente che vive al rallentatore, che ha fatto la bellissima base tra le sabbie della luna e che adesso a noi ci odia perché noi rappresentiamo il passato, il marciume, la morte, tanto loro. Non ci sono vissuti tra la gente che si buttava. Non l'hanno fiutato quell'odore di morte che copriva le città e si spandeva come un cancro, il mio cancro, questa malattia che porto nel ventre. Questa morte da cui non guarirò mai più, da cui non è guarito neanche mio padre. E anche tu, sì, anche tu. Sarai stato lassù da cui, sin dai primi momenti, anche tu avrai seguito sui vostri schermi perfettissimi quello che succedeva sul vecchio, stupido pianeta. Anche tu avrai avuto qualcuno che si è buttato perché non ce la faceva più, perché il nostro inconscio collettivo si era sfasciato, perché la vita sembrava d'improvviso inutile ed insignificante. Ma non ti è mai venuto il sospetto? Non hai mai pensato che forse l'inconscio collettivo non c'entrava per niente nei tuoi sonni? Nelle tue notti linde e asettiche, senza cancri, senza timore, senza sesso cattivo e senza rabbia da sfogare, non hai mai immaginato che fosse la pioggia vera, quella invisibile, quella che i tuoi amici lassù ci hanno lanciato tanto tempo fa, sia caduta prima che noi ci buttassimo dai balconi. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni.